4 mattino di Alessandro Milan. Io vengo dalla terra di fatti non pugnette, capito? Tutti qui sono discorsi che non contano niente. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Alle primarie lei si candida? Ripeto, rifletterò. Potrebbe vincerle? È molto possibile, ma per vincere bisogna partecipare. Segretario del principale partito, il Partito Democratico, Presidente del Consiglio, non è eletto e ha indotto 19 consiglieri della sua maggioranza a chiudersi in una stanza con un notaio e senza un dibattito trasparente in aula, nel luogo della democrazia, si destituisce un consiglio comunale, una giunta e un sindaco. Sai cosa mi viene in mente? Che lei dice io rispondo direttamente al popolo, è la stessa cosa che direbbe Renzi, no? No, perché io sono stato eletto da centinaia di migliaia di persone e Matteo Renzi non è stato eletto. Non mi devi rovinare, oh no no no no no. A Roma ti salutano tantissimo tutti, i vigili urbani, i tassisti, i centurioni del Colosseo, gli ambulanti, il Papa. Quanto ti saluta il Papa! Ha detto, per me il giubileo può anche finire qui, più giubilo di così non ci può. Tu per me sei come l'Expo, ne ha parlato tutto il mondo, ma l'importante è che a ottobre hai chiuso. È ricomparso Marino ieri a Di Martedì da Floris, si è accomodato lì, sembrava trasfigurato, io non è che l'ho visto, però Lorenzo Nespoli che l'ha vista dice sembrava trasfigurato proprio in volto, segnato. Ragazzi, sono cose che segnano, Non lo ha neanche chiamato, non lo nomina Renzi, il segretario del Partito Democratico. Non è stato eletto. Beh, questa è la cosa più forte che può dire di Renzi. Non è stato eletto da nessuno, mentre io. Che fine ingloriosa, ragazzi. E però, chissà, fine combatterà, non lo so, riemergerà Ignazio Marino, chi lo sa, ex sindaco di Roma, ora vuole che lo si chiami solo professore. Professore, professor Marino. Ah, ma a Roma succede oltre Tevere soprattutto qualcosa di... ragazzi, ecco, lì volevamo arrivare poi, lì volevamo arrivare, ci sono volute meno di 48 ore. A questi titoli qui sul Fatto Quotidiano. Dov'è? Spese Vaticane, attici, viaggi d'oro, sartorie e TV porno. Lo so, bastavano 24 ore e saremmo arrivati qui. Si stanno analizzando tutte le spese del Vaticano dai documenti trafugati e finiti in un paio di libri che usciranno domani. E insomma, i cardinali sono in business class. Sono in business class. I soldi delle messe, i soldi dei bambini malati usati per risistemare l'attico del cardinal Bertone. Oh mia bella amore. I soldi dei bambini malati, ripeto, utilizzati per rifare il lattico del cardinal Bertone. Sentite qui Emanuele Fittipaldi, uno dei due autori del libro. Oppure che alcune fatture, siano circa 200.000 euro, siano state pagate dalla fondazione a un'azienda che ha fatto i lavori in casa nel famoso attico di Bertone. La fondazione Bambin Gesù che dà i soldi per l'attico di Bertone invece che ai bambini malati. Le 6:36 minuti. Con la nuova stagione Radio 24 cambia completamente. Cara Paola Saluzzi. Ma buongiorno. Qui ci vuole un po' del tuo ottimismo per tirarci su, perché dopo queste notizie. Per espandere ottimismo, anzi, regalare ottimismo. E anche 200.000 euro a qualcuno, no? No, non so, magari li hai in tasca. No, non ce li ho. Guarda sotto il cuscino. Guarda sotto il cuscino, anzi vedo se, come diceva Pinocchio, metteva i soldi li seminava, terra, li diceva, seminava. Domani mattina nascerà un albero, l'albero degli zecchini d'oro. Ma certo, abbiamo bisogno di fare tanto tifo per Papa Francesco e tanto tifo per Roma, città che deve uscire dai suoi guai. Poi la politica, le liti, le discussioni. Sì, si diceva Roma non va bene la politica, però c'è il Vaticano, però tiene su il Vaticano l'immagine di Roma. Adesso mannaggia. Leggeremo con attenzione. Leggeremo. Buongiorno a Paola Saluzzi, così come buongiorno al nostro super mega dir Luca Dini. Ebbene, buongiorno, sì, dir. È sempre la carrà. Tu ti sei rifatto un attico con dei soldi di qualche ospedale, caro direttore? Devi subito confessare qualche peccato? No, però insomma, in fondo anche lui è un po' un bambino malato, diventa però di qualcosa. Ma chi, Bertone? Bertone? Un po' di avarizia forse, no? Cito il titolo. Di mente viene da dire, perché se un po' uno fa quello che non so. Sì, è incredibile l'incoerenza. Devo dire che forse invece di prendersela con Marino potevano guardarsi un po' meglio in casa. Effettivamente, come dire, è quel Papa che ha detto. Sembrava un po' un dilettante rispetto a questi qua. Esatto. Adesso si scopre che i soldi del Vaticano venivano utilizzati. Soldi. Certo. Altra cifra: 2.700.000 euro raccolti per le sante messe, soldi che servono ai sacerdoti. 2.700.000 euro in un anno. Soldi distribuiti ai sacerdoti: 35.000 euro. Ma dove finiscono gli altri? Ma dove finiscono, amici? Va detto che Papa Francesco se l'è presa subito con chi non, come dire, non segue determinati dettami che poi sono scritti in un libro chiamato Vangelo. Ecco, su questo non mi sottolineerei che insomma l'essere arrivato con pantaloni neri, scarpe nere e croce d'argento al collo... La sensazione è questa di aver di voler cambiare qualcosa, sì, irriverente, sì. Finora c'è stato più marketing che azioni vere, nel senso, interessante. Il marketing è importantissimo. Mi permetto di dire, no, almeno dal mio punto di vista, più che marketing è stata operatività. Reale. Poi, ma non lo so, cioè forse, o forse sei uno contro un milione, allora forse prima che si vedano i risultati ce ne vuole, forse però sì, non è sì, molto difficile, sì, un po' di marketing c'è, un po' di immagine c'è, ma tutti facciamo marketing, certo. Tutti noi facciamo marketing, cioè, ognuno di noi lo fa vivendo, camminando, lavorando in tutti i sensi, poi ci sono le operazioni vere, ecco, c'è la concretezza. Sì, dopodiché bisogna esatto capire. I quadrati a Santa Marta, girare sulla Ford Focus, non avere più determinate caratteristiche. È solo che ha messo per esempio questo cardinale George Pell, australiano, proprio lì a controllare tutti i conti, e si è scoperto dai documenti il sottolavello in 4.600 euro, i mobili di pregio, i cardinali che volano solo in business class, anche se devono fare Roma-Londra. Romano Luca, tu hai mai preso un Roma-Londra in business class? Non c'è il tempo di salire. Pensavo non ci fosse neanche. No, infatti, non c'è tempo di salire su una business class Roma-Londra, che sei già arrivato, volano solo in business class, anche per andare a Malta. Roma-Malta quant'è? 42 minuti di volo in business class, sì. Sono le spese del Vaticano, ne vedremo delle belle. Apriamo il Parlamento, dai. Siamo, come detto, con Paola Saluzzi, Sky TG24 pomeriggio, e il nostro Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Allora, sentite anche Nuzie. Sono due i libri che escono. Uno di Emanuele Fittipaldi, l'abbiamo sentito, Avarizia, e lui dice è quello del Cardinal Bertone. E poi c'è Gianluigi Nuzzi, che è già il terzo libro di questo genere. Via Crucis, per chiare lettere. Questo libro però fa paura, dà fastidio in Vaticano, e qualcuno ha reagito con le manette alla libera informazione. Ecco, questo è un punto interessante. Cioè, ogni volta, già quando uscirono i libri di Nuzzi prima, ci furono polemiche a chi dice è sbagliato trafugare i documenti e pubblicare, fare dei libri. C'è invece chi dice no, evviva, cioè meno male, sono dei signori giornalisti che pubblicano cose grazie a fonti riservate. Che ne pensate, Luca? Tu da direttore che ne pensi? Sono due validi giornalisti? Sì, sicuramente sono validi giornalisti, però devo dire che sulla pubblicazione dei documenti riservati è un tema molto, molto delicato, perché alla fine quello che conta è quanto l'informazione che esce sia veramente di pubblica utilità e quanto protegga persone, magari non è questo il caso, però lo dico in generale, persone che vengono coinvolte collateralmente, che possono vedersi rovinate da una cosa e poi magari alla fine ti chiedi perché. Però in questo caso devo dire l'unica cosa triste per me è che non sono per niente né scandalizzato né sorpreso, perché non ci trovo niente di sorprendente. Niente purtroppo. Sorprendente. Sì, quello che sempre si diceva, no? Cioè in Vaticano si vive nel lusso. Detto, cioè. Sì. Ma no, non però... è soltanto la zero trasparenza dei conti. Però è interessante questa idea del pubblicare o no, perché riguarda uno Stato, riguarda una istituzione come la Chiesa, però è un'attività giornalistica. Tu, Paola, che dici? Pubblicare? No? In quello Stato la legge è che non si passano documenti riservati, quindi sono due le infatti cose sono state veramente arrestati. Da un lato del Tevere e dall'altro, no? E da un lato ti dice fai una cosa che è fuori dalla legge, perché tu devi proteggere le notizie e mantenerle all'interno. Dall'altro, chiunque sia stato, perché ora chiaramente sarà tutto quanto da accertare, ha permesso a chi comunque sente di fare il proprio mestiere, insomma il mestiere del giornalista è questo ed è anche questo, di fare una cosa giusta. Quindi quanto poco fa diceva il direttore Dini, è il filo del rasoio, no? Cioè laddove un'informazione in più possa ledere qualcuno che alla fine in quel gran calderone non c'entra e comunque viene chiamato all'interno. Sì, però sarà l'interesse superiore sapere i soldi del Vaticano, cioè è una cosa di interesse mondiale, giornalistico, parlo. Ma anche per un motivo, perché quanto poc'anzi detto, no? Di 2 miliardi vanno ai preti per le messe, 35.000 euro, sì. Non deve togliere la volontà ai singoli che vanno in chiesa, a coloro che si sentono di aiutare la chiesa, di continuare a visitarla. Spiego meglio, perché questi sono gli scandali, o sono le cose scandalose. Sì, poi sì. Esiste una chiesa che vive dei soldi che le persone che credono e che vogliono essere lì e vogliono aiutare continuano ad andare. Sì. Cioè, esiste la chiesa delle missioni. Senza dubbio, perché sennò il rischio è quello di dire, e certo che il rischio ti viene, cioè, il rischio viene a dire, ma scusate, 2.700.000 euro avete raccolto, certo, avete dato, mi dite che certo. Li date per però i sacerdoti nel mondo, quindi. Sono sicuro che i missionari comboniani saranno i primi a non essere sorpresi dal libro di Nuzzi. Sono d'accordo, queste cose purtroppo le sanno. Sono d'accordo. Vabbè, c'è chi ci scrive giornalisti sciacalli come Stefano, e c'è invece chi... Ah, c'è invece chi chiede il selfie, attenzione, ma infatti noi abbiamo iniziato questa moda del selfie, io non lo so se voi lo volete fare, ma noi vi dobbiamo lanciare questa idea. Di tutti gli ospiti delle 6.30, voi non lo sapete, adesso vi siete fregati, ma chiediamo un selfie. Un selfie così come siamo alle 6.30? No, guarda. Eccolo lì, subito, si ritirano, non so, la nostra Veronica Gentili lo ha fatto con entusiasmo. Comunque, no, mandateci, non so, il selfie del tuo gatto, cara Paola. Mandaci la foto di un libro, Luca Dini, mandaci qualcosa, mandateci la foto dello studio, della lampada, delle vostre ciabatte, non lo so. No, ma non va bene anche noi? Possiamo andare? No, certo. Non ci no, voi, no, siete voi che avete reagito così. Io ho detto, vabbè, sarebbe auspicabile famosa, un vostro selfie. Quando ci sarà il videotelefono saremo rovinati. Ecco, esatto. Per fortuna non è accaduto, esatto. Non è accaduto, ma sai, della serie. No, scusa, mi sono impegnata. Non io, ma i bigodini in testa. I bigodini, io, i bigodini. Se metti i bigodini non vabbè. Metto più nella casa. Vedete voi, io devo andare a dare le notizie sul traffico, ma vedete voi, vorremmo, gradiremmo un selfie in primo ordine, se proprio non volete, non so, una foto che ci mettete su Twitter del particolare della vostra casa, se siete nella vostra casa o della casa di chi vi ospita, non vogliamo sapere chi è a quest'ora del mattino, tra poco. Mi scusi, dovrei andare per il traffico. Più avanti, grazie. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Ragazzi, io non capisco la gente che si preoccupa di Tavecchio quando abbiamo dei politici che hanno le bende sugli occhi. I politici quali dobbiamo mandare a casa, ma seriamente. Tessera elettorale, io non l'ho ritirata al comune perché non ci voglio perdere neanche 10 minuti della mia vita a votare dei parassiti, perché sono parassiti e basta. Il PD a Salerno con De Luca ha fatto schifo. Ok, e quindi tu, Milan, non lo difendere, che mi sembri un po' di parte, un po' troppo. Renzi, cosa vuole fare? Sui pensionati, che cosa vuole dai pensionati? Si devono dimezzare le paghe i politici! Oh, Milan, e sono fiorentino, se tu dovessi venire in Toscana e ti porto a mangiare un posto, ti porto a mangiare un posto che altro che cassuola e la cotoletta la milanese, ti può mangiare risotto al piccione, anguille fritte, ranocchi fritti, trippa e baccalà. T'aspetto, hai capito? Vabbè, dammi l'indirizzo, caro ascoltatore. Beh, Dio, porto anche Paola Saluzzi e Luca Dini, tutti, ovviamente. A questo punto, tutti lì. Oh, cari ascoltatori, c'è da dire che ieri ho sentito una frase incredibile da parte del ministro Madia. È una frase di quelle, non vorrei che in Italia stiamo un po' esagerando. Cioè, abbiamo detto addirittura che un lavoratore che truffa andrebbe licenziato. Guarda che è una cosa, cioè, io non vorrei che ritornasse il fascismo con queste frasi clamorose, con queste dichiarazioni perentorie, cioè, ma vi rendete conto? Cioè, un truffatore va allontanato dal posto di lavoro, Paola, ma sono cose... Leggo una certa ironia, una lieve ironia nella tua voce. Ma ragazzi, ma non dovrebbe essere normale in un paese normale, no? Uno che truffa, un truffatore va allontanato, no? E qui ci vuole un ministro che ribadisca che sentite qua, il dipendente pubblico, sentite. È evidente che il dipendente pubblico, ci sono state recenti cronache che dice che va a lavorare e poi non ci va, deve essere licenziato. Titoloni, Luca Dini, aperture sui giornali. Il dipendente pubblico che non lavora va licenziato. Insomma, chi è questo? Questo è il mio gatto. Sentito in diretta il mio gatto. No, scusate. L'editoriale. Ti prego, stringigli ancora la zampetta. Ma no, è lei che si piangeva perché vuole giocare a quest'ora. È bellissimo. Era il commento del ministro Madia. Era un dipendente pubblico licenziato. Non lo so. Ma no, scusate. Mi sono intromessa come non avrei dovuto, ma l'ho presa in braccio. Ha fatto così. È stato un bel editoriale. Vabbè, dicevamo, Luca Dini, titoloni, eh? Che dire? No, niente, purtroppo anche qui niente di sorprendente, dovrebbe essere la normalità. Spero che nessuno abbia il coraggio, ma ci sarà già stato qualcuno che l'ha criticato. Come no, sicuramente c'è qualche sindacato, ecco, ve la prendete, dipendenti pubblici. Poi c'è sempre questa quello che abbiamo visto è da licenziamento immediato in tronco, ma neanche fare gli scatoloni. Esatto, via in mutande, fuori ma in mutande. No, anche perché ci saranno quelli che dicono: ah, ma così si fa di tutta l'erba un fascio. È la classica frase in Italia per non fare nulla. Si fa di tutta l'erba un fascio se questi non vengono licenziati, ovviamente. Infatti, invece poi ci sono quelli che stanno lavorando. Dovrebbero essere gli onesti, dovrebbero dovrebbero prenderli a calci nel sedere, scusate. Eh no, infatti. I colleghi onesti dovrebbero buttarli fuori a calci nel sedere. Infatti non si fa di tutte le bofaccio, si individua chi truffa e lo si allontana. Banale. Ah, attenzione, Luca Dini ha twittato la foto delle sue ciabatte. Oh, e arrivo anche io, no, io twitto invece la foto della mia faccia, che forse è uguale a quella delle ciabatte, no, di Luca Dini. Ma no! Eccole qui le ciabatte di Luca Dini. Ma è abbastanza da, abbastanza da Cardinal Bertone, da 700 sì. euro al paio, effettivamente. No, no, le ho rubate in albergo. No, oh, no, il furto, classico furto in albergo. Non è furto, non è furto, ma che le hai buttate e le hai portate a casa. Gli asciugamani li ho lasciati. Li ha lasciati, asciugamani sì, ma scarpe no. Allora, tra poco arriva anche quella di Paola Saluzzi. Sono di corsa, devo dire che c'è Brangelina, torna su Vanity Fair in copertina, cioè Brad Pitt e Angelina Jolie. Ma è vero che sta così poco bene Angelina? Non lo so, è magrissima. No, allora sì, è magrissima. Quella storia di lui che la lascia per, cioè, sono le ennesime stronzate che si inventa. Qualche giornalaccia che purtroppo tutti riprendono senza. Sono innamorati invece, sono innamorati i Brangelina. Ma insomma, fino a prova a contrarmi mi pare proprio di sì. Pare di sì. Vabbè. In copertina Brangelina. E tu invece, cara Paola, che farai? Parlerai di Vaticano, di Vatilix? Allora, di noi Corvi? Siamo ovviamente su Vaticano, politica, Roma, perché insomma siamo alla vigilia del processo Mafia Capitale. E come no? Si parte domani, anzi si è già partiti, ma si parte domani ufficialmente, quindi questi saranno i nostri temi. Hai mandato il selfie? E adesso andiamo a vedere. Attenzione, subito. A controllare su Twitter il selfie, lo vorrei fare in diretta, porca miseria, ma deve aggiornarsi. Eccolo qui, il selfie per Alino, la nostra Paola Saluzzi. Insieme, il gatto non c'è, però il suo editoriale l'ha fatto. Ah, la Saluzzi è proprio di primo mattino, con questa mano davanti alla bocca. Va bene, andate su Twitter e la vedrete. Vi ringrazio e vi saluto, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, alle 7:18 minuti, vi ricordo che più avanti con Oscar Giannino parleremo certamente di quello che sta succedendo in Vaticano, la notizia del giorno su tutti i giornali, anche oggi, ma parleremo anche di regioni, di dipendenti pubblici e anche di calcio. Avremo ospite Demetrio Albertini, ex grande calciatore, colui che ha perso la sfida un anno fa con Tavecchio, attuale presidente della Federazione Gioco Calcio, la sfida elettorale, perché Demetrio Albertini si era candidato contro Tavecchio, e che ci dirà che ne pensa, insomma, di quello che sta succedendo ai vertici dello sport più amato dagli italiani, dalle 8:15. Ora intanto andiamo a leggere i giornali. Amici miei, in questo mercoledì 4 novembre, i titoli intanto, il Sole 24 Ore apre sul nuovo piano quinquennale della Cina. La Cina apre ai capitali esteri, yuan convertibile entro il 2020. Questo è il titolo di prima pagina. Poi il Vaticano, dalle carte che sono state passate ad alcuni giornalisti, a due giornalisti che hanno scritto due libri, cioè Gianluigi Nuzzi e Emanuele Fittipaldi. Eccoli i nuovi particolari. Corriere della Sera, Vaticano, le altre carte rubate, documenti trafugati e non ancora utilizzati. E da qui, scrive il Corriere della Sera, probabilmente ne verranno fuori delle altre. Repubblica invece, manovra e scontro, Renzi a Banca Italia, giusto tagliare l'IMU. ma la vicenda del Vaticano davvero esonda ovunque. In Vaticano hanno rubato pure i soldi delle messe, questo è il titolo di Libero, mentre il Fatto Quotidiano, Casta Vaticana S.P.A., Attici, Viaggi d'Oro, Sartorie, TV Porno. Il Giornale, ecco le carte sul Papa. La Stampa, Vatilix, sprechi e privilegi, il Papa dice serpenti velenosi. Anche il Secolo XIX, i conti segreti del Vaticano, mentre Avvenire, Francesco, avanti, sereni e determinati. Anche per il Messaggero, corvi in Vaticano, nuovi indagati. Allora, vediamo appunto quelle che sono le nuove notizie uscite oggi sui giornali. Intanto vi segnalo che il Corriere della Sera ha proprio questa notizia messa nel titolo di prima pagina: non sarebbero stati resi noti tutti i documenti trafugati, nonostante Francesco, il Papa, dica andiamo avanti con serenità a chiunque lo incontri. Per esempio, ieri c'è stato un tweet dell'arcivescovo Angelo Becciu che ha detto e ha scritto: ho appena visto il Papa, le sue parole testuali sono andiamo avanti con serenità e determinazione. La verità, scrive il Corriere della Sera, è che non tutti i documenti trafugati sono già stati utilizzati e dunque ci sarebbero delle novità in arrivo. Questo si racconta nell'articolo di Fiorenza Sarzanini a pagina 9. Ci sono documenti riservati, trafugati, non ancora utilizzati, carte segrete che raccontano quanto accaduto negli ultimi anni allo IOR, l'istituto finanziario di fatto forziere della Santa Sede. Documenti che in parte sono finiti nei due libri sul Vaticano in uscita domani, in parte hanno preso strade che gli uomini della gendarmeria hanno cominciato a esplorare e potrebbero portare a nuovi e clamorosi sviluppi. Ed eccolo dunque il titolo: altri documenti rubati o non svelati nel computer del prelato anche lo IOR. Se volete altri particolari, Libero invece racconta di presunti nuovi arresti in arrivo. A pagina 2, eccolo qua il titolo di Libero: aria di arresto per un altro monsignore, si allarga l'inchiesta su Vatilix, racconta Roberta Catania, voci di nuovi possibili fermati, tra cui un prelato. Mentre Francesca Sciauchi è stata liberata dopo essere stata sentita nuovamente ieri, perché, scrive Libero, è incinta e dunque per questo motivo non è stata trattenuta nelle carceri vaticane. Questo almeno scrive Libero. Tra l'altro Francesca Sciauchi viene sentita da Repubblica a pagina 13, intervistata da Fabio Tonacci. Per la verità lei fa sempre questi colloqui dicendo: questa non è un'intervista, premette questo, poi parla. Come fa a essere sicura che sia stato il Monsignor Balda a incastrarla? Sì, è stato lui a fare le registrazioni anche a Papa Bergoglio, lo ha intercettato, cioè l'ha registrato mentre parlava e ce l'ha fatto sentire. Eravamo lì, lui stesso ci fece ascoltare un audio dei membri della COSEA, la commissione di revisione dei conti dei dicasteri della Santa Sede. E quale fu la vostra reazione? Tutti rimasero esterrefatti, ma la cosa finì lì. Lei sostiene di essere stata tirata dentro dal Monsignore in questa storia. Perché proprio lei? Beh, ero l'unico membro italiano di quella commissione. Però eravate molto amici. Sì, lo siamo stati, ma la scorsa primavera lui ha cominciato ad agitarsi, è come impazzito. E perché? Beh, non è un segreto che sperasse di ottenere il posto di revisore generale del Vaticano, per cui è stato scelto invece Libero Milone. Comunque si difende dicendo: io non c'entro nulla, sono stata tirata dentro. È che però nei documenti trafugati escono dei particolari abbastanza incredibili. Giuliano Foschini li anticipa dal libro Avarizia di Emiliano Fittipaldi a pagina 14 di Repubblica. Ci sono i mobili di pregio, il sottolavello da 4.600 euro comprato dal cardinal Pell, cardinale australiano che è stato messo lì proprio per controllare i conti del Vaticano. E proprio dall'elenco dei documenti usciti dagli uffici del cardinal Pell, ecco che si evincono dati incredibili. I cardinali, per esempio, volano solamente in business class. Cari amici, voi che siete nelle vostre piccole scatole di lamiere, solo in business class, anche per un Roma-Londra, anche per un Roma-Malta, in business class, 45 minuti forse di volo. E allè. E poi il sottolavello da 4.600 euro è già diventato epico. Le 47.000 euro per mobili armadi, 7.292 euro di tappezzeria, lavoretti vari da 33.000 euro, ma poi 200.000 euro della Fondazione Bambin Gesù, cioè utilizzata e servirebbero per curare i bambini malati, finiscono, secondo Emiliano Fittipaldi, alla ditta che fa i lavori dell'attico del Cardinal Bertone. 200.000 euro. Questa è la semplificazione giornalistica, sottratti ai bimbi malati per pagare l'attico al Cardinal Bertone. Eccolo qui. E poi fa sparire le offerte delle messe, altro dato, 2.700.000 euro raccolti in un anno per le sante messe per i sacerdoti nel mondo. Di questi 2.700.000 euro, quanti arrivano ai sacerdoti nel mondo? Briciole, 35.000 euro. 35.000 su 2.700.000. Il tesoro immobiliare della Chiesa, che vale 4 miliardi di euro in tutto il mondo. E il Fatto Quotidiano racconta poi il caso della diocesi di Maribor in Slovenia, 800 milioni di euro di buco, un buco clamoroso, tanto che a un certo punto la Chiesa slovena comincia a trasmettere anche film porno per aumentare lo share sulle proprie TV e cercare di guadagnare un po' di soldi. Insomma, lo spaccato è da rabbrividire e clamoroso. Certo, c'è un Giuliano Ferrara oggi sul Foglio molto arrabbiato. Il titolo è del suo editoriale Francesco e il Corvo Democratico. Se la prende proprio su con molti colleghi e con i giornalisti, con coloro che propalano questi documenti, anzi, queste cartuccelle trafugate, scrive Giuliano Ferrara, pettegolezzi grotteschi, spiate spifferate su veri o presunti vizietti curiali e cardinalizi, un appartamento qui, un'auto di lusso lì e via con la compagna sulla casta vaticana con il caro Gian Antonio Stella adiuvante sul Corriere della Sera. Da rabbrividire, ma di noia, scrive Ferrara. Però copie vendute sul sicuro, traduzioni istantanee in 23 paesi, leggende nere, scandalo, arresti. Dovessimo usare lo stesso metro politicista dei tifosi di Francesco, che vedono lupi anti-Bergoglio da ogni parte o ce li fanno vedere per gola, dovremmo dire che i complottatori sono bergoglisti dell'ala militante. Per loro la curia è una lebbra, celebre definizione del Papa regnante consegnata a Scalfari. Ed ora la stampa, insieme ad Avvenire, Repubblica, Il Fatto e Giornalista Collettivo Andante, è all'avanguardia del Vatican Insider in ogni senso. Insomma, Giuliano Ferrara se la prende anche con questo metodo sui giornali. Va bene, ma ne parleremo dalle 8.15 anche nei prossimi giorni. Oh, vi devo raccontare invece questa storia che è incredibile. E riguarda un veterinario italiano che è finito nel mirino, secondo me giustamente, di animalisti ma anche di colleghi. Ricordate la vicenda del medico dentista americano che è andato a uccidere un leone, credo, in Botswana, da quelle parti, e si è fatto la foto, è finito al centro del mirino? Oh, c'è un caso uguale, ma riguarda un veterinario italiano. È il veterinario che si chiama Luciano Ponzetto, di Caluso in provincia di Torino, la cui immagine, foto con un leone morto appena cacciato da lui, è spuntata sui social network. È una foto che risale a qualche anno fa, un bottino di guerra, si può dire proprio così, ed eccola qui, io l'ho messa sul mio profilo Twitter: veterinario fotografato dopo una caccia al leone, polemiche, va radiato dall'albo, animalisti e colleghi scatenati, minacce di morte su Facebook. La stampa dedica una pagina alla vicenda di questa fotografia e di Luciano Ponzetto, 50 anni, stimato dottore di Caluso, paese alle porte di Torino, da 16 anni anche direttore sanitario del canile, quindi immagino che lì lo conosciate tutti. Ebbene, appare questa foto di lui a caccia con un leone morto 5 anni fa. Lui si difende, intervistato dice: sono frastornato, mi trovo a rispondere per una fotografia vecchia di 5 anni, ora perfetti sconosciuti mettono in dubbio la mia professionalità, il mio lavoro, l'amore per gli animali. Come l'amore? Ma certo, lei cura gli animali e poi nel tempo libero spara e li uccide, ma non c'è alcuna contraddizione? Ma niente affatto, risponde lui, fa parte della cultura contadina che mi ha cresciuto, rispetto le regole e le leggi di ogni paese. E scusi, la sua coscienza? Ma io dall'età di 6 anni ho sempre saputo di voler fare questo mestiere, cioè il veterinario, e allo stesso tempo aspettavo il rientro dei cacciatori per vedere le loro prede. Dunque non c'è alcuna incompatibilità tra fare il veterinario di giorno e andare a fare il cacciatore, solo che è finito in questa polemica vibrante, bisogna dire, perché c'è questa foto di lui che 5 anni fa cattura e uccide un leone in Zimbabwe, credo, viene messa sui social e ovviamente minacce di morte, accuse. Anche il Corriere della Sera dedica una pagina a questa storia: uccide il leone, si fa la foto, ma questa volta è italiano. L'immagine è diffusa da un sito di safari e arrivano le minacce sul web. Lui dice: sparare agli animali non è incompatibile con la mia professione di curarli, e cioè di fare il veterinario. Ma è questa la carta, no, la carta costa, il premio mani sul volante, l'articolo che mi fa pensare della giornata è molto semplice, riguarda voi che siete in auto e sappiate che, come racconta Repubblica con Vincenzo Borgomeo, ogni anno, no, che ogni anno, ogni ora 14 auto vengono rubate in Italia. È il record italiano di ladri di utilitarie, 14 macchine rubate ogni ora. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. State ascoltando un programma offerto da Salmoiraghi e Viganò. Anquo Alessandro Mila e leserai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanki schei? Questo è uno dei migliori, sempre dal Veneto, uno dei migliori. E allora, caro ascoltatore e cari tutti, beh, c'è il dibattito tra Renzi e le regioni che tiene banco. Oggi alle 18 si vedranno il Premier e i governatori delle varie regioni, le regioni che dicono rischiamo il fallimento, rischiamo di andare a gamba all'aria coi conti, e Renzi che risponde l'incontro. E ora ci divertiamo, ma sul serio. Ecco, questa frase che ieri Renzi ha rinforzato, perché stanco di incassare le critiche, come raccontano tutti i giornali, ha lanciato questa frase, eccola qua. I governatori delle regioni guadagnano tutti più di me. Ed è un po' il metodo renziano, cioè quello di mettere un po' gli uni contro gli altri, far passare all'opinione pubblica l'immagine: ok, io sono meglio e guardate che gli sprechi ci sono. Infatti io immaginavo che sarebbe uscito nel giro di 24 ore i vecchi dossier che ogni tanto tornano sui giornali sugli sprechi delle regioni, ed eccoli qua. Infatti Sergio Rizzo, pagina 3 del Corriere della Sera: i trasporti campani, il casinò della Vallée, tutti gli sprechi regione per regione. Sergio Rizzo racconta soprattutto lo studio dell'ex deputato del PD Salvatore Vassallo, che si è messo a lavorare su un libro bianco sulla governance delle regioni. Lo ha fatto partendo da uno degli enti territoriali considerati più efficienti in assoluto, cioè l'Emilia-Romagna, e anche lì però ha trovato vari sprechi, e poi l'elenco dei vari sprechi, delle inefficienze regione per regione. Così anche l'Unità a pagina 2. È lo storytelling, bellezza, a pagina 2 dell'Unità, eccolo qua, cioè lo storytelling è il racconto delle cose, ricordate, conta sempre come si raccontano le cose, non tanto le cose in sé. Ed eccolo qui, pagina 2 dell'Unità, il fiume di spesa delle regioni che scorre tra servizi e sprechi. Marco Ventimiglia racconta tra differenze macroscopiche tra le varie aree del paese e i vari sprechi. E così il Sole 24 Ore, ecco Gianni Trovati che racconta le cifre della spesa delle regioni. Maxi spesa da 153 miliardi in prima pagina del sole già anni trovati, non è certo un caso che la tensione tra Renzi e regioni sia salita al massimo proprio mentre si discute di misure salva Sicilia e di decreto salva Piemonte, che al di là del titolo sono in realtà un provvedimento più in generale salva regioni. Dall'altra parte del tavolo il premier osserva giocatori in affanno, schiacciati da una spesa che negli anni si è gonfiata fino a 153 miliardi e ha moltiplicato le tasse più dei servizi. Ecco dunque le regioni in trincea, oggi il vertice con Renzi e queste cifre che sicuramente Renzi evidentemente spiattellerà e metterà sul tavolo, come dire, voi guadagnate più di me, ed eccolo qui il macigno della spesa delle regioni, 153 miliardi l'anno, che oggi c'è sul Sole 24 Ore, come dire, forse potete risparmiare qualcosa qui invece di venirvi a lamentare. Intanto su questo il Corriere della Sera con Marco Imarisio a pagina 5 racconta la storia del grande gelo tra Renzi e Chiamparino della serie C'eravamo tanto parlati. Chiamparino che dice: con Matteo ormai non riesco più a parlare. E Imarisio dedica una pagina al rapporto tra i due riconsolidato dalla Leopolda il 26, no, l'ultima Leopolda del 2014, poi il 26 maggio 2014 Chiamparino che è stato eletto presidente del Piemonte col 47% dei voti, ma da allora il rapporto si è molto raffreddato. Ora il governatore del Piemonte dice: io vado a Roma con lo spirito di lavoro e non di divertimento, visto che è una risposta a Renzi che dice: ci divertiremo. Comunque il rapporto anche difficile tra Renzi e Chiamparino. Oggi si vedranno Renzi con tutte le regioni alle 18. Mentre, ragazzi, ieri mi sembrava di impazzire quando ho sentito questa frase epocale, una rivoluzione, una quasi come la scoperta della terra rotonda rispetto a quando si diceva che la terra era piatta. Cioè, il ministro Madia, funzione pubblica, ha detto che un lavoratore pubblico che truffa va licenziato. Io mi sono detto: beh, non stiamo un po' esagerando? Non ci stiamo spingendo oltre? Scopriremo che il 25 dicembre è Natale a questo punto, perché sembra ovvio, ma non è una critica al ministro, è che l'ovvio in Italia non è mai così ovvio. Statali, licenziare chi falsifica le presenze. Cioè sta dicendo che chi fa una truffa deve essere allontanato dal posto di lavoro. E ripeto, credo per il 99,9% degli italiani è una ovvietà, ma evidentemente questo finisce su tutti i giornali, anche perché cosa succede? Che poi non succede veramente quello che viene detto. Per carità, poi un'altra frase che non si è mai sentita: ma non è vero che tutti i dipendenti pubblici sono dei furbetti. E beh, anche questa effettivamente è una clamorosa novità. È vero, come si è sempre detto, la maggior parte dei dipendenti pubblici sono assolutamente persone oneste e che per stipendi anche non altissimi si danno da fare in maniera coscienziosa e in maniera puntuale. Ma il dato di fatto è che di fronte alle dichiarazioni licenziare gli statali che falsificano le presenze, questo è il titolo che trovate ovunque in fotocopia su tutti i giornali, la dichiarazione del ministro Madia, poi uno va a vedere le notizie, cioè ma cosa succede poi nella pratica, nella realtà? Succede questo: la vigilessa che bollava e andava a casa se l'è cavata con una multa da 500 euro, racconta La Stampa pagina 7, è una storia che viene da Monza. Fabio Poletti, Monza, 120.000 abitanti, 1.000 dipendenti pubblici, quasi uno su 100. Qualcuno si era indignato per quella furbetta del cartellino che si sentiva impunita. Come vigilessa in servizio doveva controllare la viabilità delle strade, invece in ufficio non ci andava mai, quasi mai. Timbrava il cartellino e poi con l'auto di servizio e lampeggiante se ne tornava in famiglia a farsi i casi suoi, scrive La Stampa. Risultato: una sanzione da 500 euro ed è tornata in servizio. Lontana dalla strada, ma in servizio. Senza i galloni della divisa, ma in servizio. Senza l'auto con lampeggiante, ma in ufficio, in servizio. E l'assessore Montalbano dice: avremmo dovuto licenziarla se fosse già operativa la proposta del ministro Madia. Ma come? Ma le leggi già ci sono, mi risulta che ci sono già le leggi per licenziare i furbetti, però non si fa. Oppure succede come a Sanremo, Marco Menduni, il secolo XIX. Pagina 4. A Sanremo è già scattato il primo reintegro in servizio di una dipendente comunale. Ricordate tutta la vicenda anche con quello beccato in mutande a timbrare? È già prima novità. Proprio ieri, clamorosa novità dalla deflagrazione dell'inchiesta. Una novità di segno contrario. È scattato il primo reintegro in servizio. E non è una posizione marginale, ma una delle 8 dipendenti alle quali era stato imposto l'obbligo di firma, responsabile del servizio musei del comune, Loretta Marchi, è tornata al lavoro. Perché il giudice ha revocato l'obbligo di firma. E lei ha portato al giudice una documentazione molto dettagliata, ha dimostrato, carte alla mano, che le mancate timbrature non servivano a coprire assenze o fughe dal lavoro, ma la necessità di spostarsi tra le varie sedi in cui si svolgeva il suo lavoro. Insomma, tradotto, sarebbe stata una perdita di tempo passare in comune a timbrare il cartellino. E dunque è rientrata in servizio. E ancora, Repubblica, solo 100 gli assenteisti cacciati. Allora, il ministro Madia evidentemente dice vanno cacciati tutti, dicendo una frase rivoluzionaria, quelli che truffano, la realtà è un'altra. Volete continuare? Devo continuare? Libero, invalidi per lo Stato, lavoravano in nero. Questa invece è un caso di gang di truffatori smascherata, l'Italia delle truffe e dei truffatori. Stavolta i soliti ignoti, racconta Enrico Paoli, con la pensione di invalidità per patologie che non permettevano loro di avere un'attività lavorativa, in realtà lavoravano tranquillamente. E in nero. E a lei. E ora Milan... Ma non saffogo! Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Con Alessandro Milan la notizia diventa una peperlizia. Ebbene sì. Allora, orfani di Mauro Meazza, state tranquilli, è un po' un debosciato, si è preso 3 giorni di vacanza. Domani sarà con noi, debosciatello, però riposato. Mauro Meazza domani torna ai microfoni di 24 mattino. Intanto, a proposito di Sole 24 ore, vi voglio segnalare una notizia che trovate e che riguarda il mondo della scuola. Molti sono interessati ai concorsi, o meglio al concorsone sulla scuola, e allora non perdete oggi il Sole 24 ore perché ci sono delle anticipazioni interessanti. Eugenio Bruno e Claudio Tucci raccontano in particolari i particolari anticipati del concorsone, del bando vero e proprio che è atteso entro fine novembre per 63.700 posti in più. E allora, neanche il tempo di archiviare la pratica maxi assunzioni, per la scuola è già tempo di un nuovo concorsone, visto che il Ministero dell'Istruzione ha chiesto l'autorizzazione all'economia per bandire la selezione di 63.700 cattedre riservate ai soli docenti abilitati, a cui si aggiungono nei prossimi 3 anni le 30.000 stabilizzazioni. E allora il Sole 24 Ore anticipa i contenuti principali del bando. Per esempio, la maggior parte dei posti interesserà gli istituti superiori, sono 16.300, oppure le materie più gettonate, che saranno matematica, lingue e italiano. Tutti i particolari di come si svolgerà il nuovo maxi concorsone da 63.700 posti le trovate anticipate sul Sole 24 Ore a pagina 19. Oh, invece per quel che riguarda la legge di stabilità, ora si arrabbiano dopo le regioni, dopo i comuni, dopo la Corte dei Conti, dopo Banca Italia, che tutti hanno, dopo i tecnici di Camera e Senato, insomma tutti a dire qualcosa che non va. Ecco che si arrabbiano anche i medici. I medici di famiglia hanno annunciato per il 16 dicembre prossimo una giornata di sciopero. I medici incrociano le braccia, troppi tagli alla sanità, sciopero generale. Il 16 dicembre si fermano i camici bianchi del servizio pubblico. Questa notizia la trovate sul Giorno, ma anche sul Libero. Contro i tagli arriva lo sciopero dei medici. E invece a Roma ieri Ignazio Marino si è tolto i primi sassolini dalla scarpa, è andato da Di Martedì, da Giovanni Floris, sulla 7 e ha detto: occorre ristabilire la verità. Renzi voleva Roma sotto il suo diretto controllo e se l'è presa. Un Marino un po' dimesso, evidentemente provato da questa vicenda da sindaco di Roma, anche se lui ora dice chiamatemi solo professore, non più sindaco. Ma insomma un Marino che dice: Renzi mi attacca, mi offende sul piano personale per coprire con la damnatio memoriae una spregiudicata operazione di killeraggio che ha fatto esultare i tanti potentati che vogliono rimettere le mani sulla città. Marino, lo sappiamo, voleva fare questo suo confronto nell'aula dell'Assemblea Capitolina, in Consiglio Comunale di Roma, nonché voleva presentarsi domani all'inizio del processo a Mafia Capitale con la fascia tricolore da sindaco. Ebbene, tutto ciò non succederà perché, come sapete, è stato fatto decadere con le dimissioni di 26 consiglieri comunali. È arrivato il prefetto Tronca e dunque Marino è già storia per quel che riguarda il sindaco di Roma, anche se lui dice: non è detto che non mi ricandidi alle primarie, potrei farlo. Intanto il processo invece va avanti, Mafia Capitale. Tra l'altro oggi tutti i giornali segnalano che c'è una novità importante. Giovanni Bianconi, per esempio, a pagina 13 del Corriere della Sera: la prima condanna per un uomo del clan Buzzi. E perché è importante? Non tanto la condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere per corruzione, pena esemplare visto che è maggiore di quanto chiedeva l'accusa nei confronti di Emilio Gammuto, ma perché in questo procedimento è stata riconosciuta dal giudice l'idea che si tratta di mafia. Sapete che c'è tanto un dibattito Mafia Capitale se sia solo il nome dell'inchiesta o se si debba considerare che a Roma c'era una criminalità organizzata, c'è una criminalità organizzata che opera con gli stessi strumenti e gli stessi metodi operativi della mafia. Ebbene, la sentenza nei confronti di Emilio Gammuto dà forza alle tesi della procura nel maxi processo che parte domani, e cioè l'utilizzo della parola mafia e di sodalizio criminale come mafia. Questo vedremo se reggerà anche in dibattimento domani nel processo che si apre nei confronti di diversi imputati. Invece a Messina che succede? A Messina continua a non esserci l'acqua, è una situazione veramente da terzo mondo. A noi dispiace per tutti i messinesi che sono vittime di questa situazione. Lo abbiamo fatto l'altra volta con Oscar Giannino, lo ripeto, chiamateci se volete, se siete da Messina ci ascoltate, 800 24 0024, dalle 8:15 i microfoni sono aperti, perché c'è gente che dice: Fiorello, aiutaci tu, da buon siciliano. C'è gente che si affida a Fiorello, c'è l'acqua venduta al mercato nero, ci sono le autobotti come ai tempi di guerra. D'altronde c'è stata un'altra frana e dunque il rattoppo al vecchio acquedotto non ha retto e l'ennesima perdita con l'acqua che zampilla in aperta campagna come se fosse petrolio del Texas, racconta sul Corriere Felice Cavallaro. Ecco allora che c'è gente che chiede aiuto a Fiorello. Per la verità queste sono tre donne di Gela, dove anche a Gela c'è stato qualche problema di acqua, cioè chiedere aiuto a Fiorello. Ecco, con tutto il rispetto per Fiorello, siamo a questo livello in Italia, quando ormai uno non si può appoggiare a nulla. Ricordate la vicenda della bimba di 11 anni con l'AIDS alla quale è stata negata la scuola? La vicenda era finita su Avvenire con una lettera molto accorata dei genitori e un appello al ministro Giannini, ministro dell'istruzione, a dire: ministro, anche nostra figlia disabile, undicenne, con l'AIDS ha diritto ad andare a scuola. E il ministro ha risposto prontamente: è stata inserita a scuola. Ora c'è la protesta dei genitori degli altri compagni. In classe con l'AIDS, madri in rivolta. Stella Cervasio lo racconta su Repubblica, ma anche mezza pagina su Libero. Il dibattito con la bimba con l'AIDS a scuola: è davvero giusto rimetterla nella scuola? O, chiede Libero con Giornale Tedoldi, non è che rischia una discriminazione più subdola e crudele, quella di essere isolata, quella di essere additata come la compagna portatrice dell'AIDS e quindi da allontanare, da tenere isolata? Cioè il dibattito se sia giusto che torni a scuola questa ragazzina di 11 anni. Vabbè, chiama la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, non ci credo una pagina. Una pagina intera di Elena Tebano sul Corriere della Sera per raccontare la scelta di Essina O'Neill. E chi cavolo è? Essina O'Neill, modella diciottenne che ha detto «Lascio i social, tolgo le mie 2000 foto, è un mondo virtuale, irreale, non vero, me ne vado!» Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Ladies and Gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Carissimo Oscar, buongiorno, forse è il caso di sapere subito che santo è oggi, perché da quelle parti è vero, in Vaticano deve essere un po' di gossip anche lì. San Carlo Borromeo, quindi per noi che siamo a Milano un grande nome, per così dire, certo. San Carlo seppe declinare una invadente presenza anche all'epoca nella vita pubblica di questa città con una grande missione culturale. Ovviamente ormai pagine e pagine su, giustamente è usato la parola anche gossip e pettegolezzi sul Vaticano. Pettegolezzi nel senso basati sui dati, per cui sappiamo che i cardinali volano rigorosamente in business class, che l'attico di Bertone forse è stato pagato coi soldi dei, per i bimbi malati, insomma tutte cose che come dobbiamo accettarle, cioè fanno scalpore. E poi ecco, no, a me sembra che i giornalisti siano un po' vittime di se stessi, un pochino, questa è la mia autocritica, poi non voglio criticare nessuno, ho iniziato a guardare, mi piace più il libro di Fittipaldi, quello di Nuzzi, ma devo leggere bene tutti e due, perché fino a questo momento nella realtà, bene a chi fa il mestiere di cronista, però apriamoci con le palle negli occhi, fino a questo momento stiamo parlando di cose di colore, cioè riscopriamo che ci sono più cardinali di curia che vivono in appartamenti a 400 metri, quante volte dobbiamo scrivere per sì, questo scusami è poi il patrimonio dell'APS, il patrimonio degli ordini. Raccontiamo da decenni che era, giornali hanno titolato fino al 20% del patrimonio immobiliare di tutta Roma, e adesso scopriamo che in tutto sono la pur rispettabile cifra di 4 miliardi, che però l'autore stesso del libro, il collega d'Espresso Fittipaldi, dice io stesso mi aspettavo molto di più. Sì, cioè il Vaticano avrebbe 4 miliardi di euro di proprietà in tutto il mondo, che effettivamente è una cifra che è messa così, 4 miliardi è considerevole, ma forse qualcuno si aspettava di più dopo tutto quello che è stato detto. Sì, se pensi che la stima del patrimonio immobiliare pubblico dello Stato italiano è più vicino ai 500 miliardi che ai 400, uno dice 4 miliardi ci sta pure, no? Un po' poco. A me sembra un po' poco ancora, però dico, a scavare qua di grandi, cioè hanno tirato fuori qualche documento vero sui dissensi sull'orientamento dottrinario teologico? No, sono ecco. Tutti documenti economici. Tutti documenti economici. Scopriamo dai documenti, per esempio, che in un anno hanno raccolto per le sante messe 2.700.000 euro. Di questi soldi, solo 35.000 sono andati ai sacerdoti nel mondo. Dovrebbe servire a quello. Cioè, si scopre che c'è molta opacità nei conti. Si scopre che la Chiesa è fatta da uomini che sbagliano, che è un'eterna scoperta, non è un grande scoop, su chi si illude che la Chiesa sia fatta da santi, però comunque viva, ma io credo che tutta questa esistenza sulla ciao qui eccetera eccetera derivi molto dal problema dei giornalisti che hanno un problema di autoriflessione nello specchio, cioè diciamo che c'è un po' di un po' di gossip nel volere anche scoprire cose che magari sono sempre pruriginose, no? Il cardinale che si fa il sottolavello da 4.000 euro, il cardinale che nella diocesi di Maribor in Slovenia mandavano i film porno dalla TV per recuperare un po' di audience e un po' di soldi, insomma cose così. Però sta di fatto che la notizia è la notizia che da giorni è la prima notizia sui giornali. Sì, dopodiché italiani. Poi ciascuno la piega a modo suo, per cui Giuliano Ferrara praticamente nel suo pezzo di oggi, che sul ovviamente foglio. Sul foglio ingigantisce la cosa che si tratti di robetta più o meno, poi arriva alla conclusione: del resto, siccome questo Papa non ha la grande guida teologica, ecco che ci occupiamo di robetta. Quindi vabbè. Ognuno se lo gira come vuole. Comunque, se volete dirci anche la vostra, siete sconvolti, domani usciranno questi due libri e magari cercheremo anche noi gli autori Emanuele Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi. 800 24 00. Fammi dire quest'altra cosetta su Ferrara. Lui continua a dire che Mafia Capitale non c'è, che è un'invenzione. Adesso arrivano le prime condanne dove gli aggravanti mafiosi vengono confermati. Esatto. Lui continuerà a dire che non c'è. È un mondo di autoreferenzialità, come devo dire. Sì. Si apre domani il processo a Mafia Capitale, ma c'è stata questa prima condanna per un processo, diciamo, che è stato stralciato e dove la mafia è stata riconosciuta come aggravante dal giudice. Se tanto mi da tanto, vuol dire che anche da domani. Immagino che qualcuno dirà che i giudici inventano tutto, che non è mai esistito il patto di cui, ripeto, ieri Odevin ha parlato ai magistrati, ripreso dal Messaggero, unico giornale, un patto tra Alemanno e l'allora capogruppo del PD sulla base: ogni consigliere comunale gli diamo 400.000 euro di margine spesa, ai capogruppo 1 milione di euro. Questo è stato il modo in cui è andato avanti il patto ai più alti livelli politici, e sotto poi la terra di mezzo, così. La terra di mezzo. Allora, poi per quel che riguarda la politica, ha detto che noi avremo ospite, invece parleremo un po' di calcio, avremo ospite Demetrio Albertini, ex calciatore, dirigente, colui che ha cercato di sfidare Tavecchio e ha perso alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Poi c'era tutta la politica. Renzi ovviamente la butta così: i governatori che si lamentano, i presidenti delle regioni guadagnano più di me. Beh, capisci però che è una maniera seria anche ma questa. È una maniera, dai, ma no, ma è un modo per far apparire all'opinione pubblica, come dire, le regioni sono quelle che sprecano, i governatori sono quelli che guadagnano più di me, no? Se guadagnano più di lui, allora si parlasse di questo, ma il problema è che una politica che diventa sempre più solo questo, cioè se vedi sui giornali in 24 ore lui che dice: adesso convochiamo il presidente delle regioni, allora sì che ci divertiamo. Sì. Dopodiché e Chiamparino dice: non vado a divertirmi, ma a divertirmi, parlare di lavoro. Reazione oggi su Repubblica: prendiamo che Renzi dice: ah sì, allora io sostituisco Chiamparino con Bonaccini, che ex bersaniano mi è diventato fedele. Dopodiché Grillo dice a Renzi: hai paura, eh? E Renzi risponde: ma fammi ridere. Titoli che oggi Repubblica ci propone. Dopodiché l'ex sindaco Marino dice: il premier è un killer che si voleva prendere Roma. È vero, ieri è andato da Floris e ha fatto la prima intervista dopo, dicendo: allora, è un killer. Io trovo che oramai ci sia questo vortice di crescente violenza, anche proprio verbale, intorno a Renzi, ma che Renzi rilancia con altrettanta durezza. Ma in io genere sono quando molto c'è, perplesso. Quando c'è questo clima verbale, in genere perché si è in campagna elettorale, in questo caso? In genere perché si è in campagna elettorale, perché si vuole dare l'idea che capisci come l'ok Corral, però io la trovo propaganda gratis ai 5 Stelle. Ah, tu dici, fanno tutti il lavoro gratis per il Movimento 5 Stelle. Ma è l'impressione generale. Ma tra l'altro Marino, ma ce l'abbiamo Marino che ieri è andato da Floris, ha detto è un killer. Non abbiamo proprio il momento in cui dice un killer, però insomma il concetto di dire Marino dice Renzi si è voluto riprendere la città. È un Marino molto dimesso, si è presentato così, sentitelo. Sai cosa mi viene in mente? Che lei dice: io rispondo direttamente al popolo, è la stessa cosa che direbbe Renzi, no? No, perché io sono stato eletto da centinaia di migliaia di persone e Matteo Renzi non è stato eletto. Capisci che la stoccatina di Marino: io sono stato eletto, Renzi no. Ma che risponde a una cosa che aveva detto Renzi, perché ieri sul giornale avevamo Renzi a cui veniva attribuita la frase: è finalmente finito il tempo anche per i sindaci del lavoro a tempo indeterminato, del posto fisso. Arriva una frase prefetti. Del tutto impropria, perché se i sindaci devono rispondere davvero a chi li ha eletti, non in alto verso il Presidente del Consiglio. Quindi guarda che tutti questi segnali di violenza politica in dichiarazione ci dicono che c'è un profondo caos sotto questa acqua cheta che controlla tutto, che risponde con un sorriso alle obiezioni pesanti della Corte dei Conti su tutto l'impianto della legge di stabilità. per me c'è un grande caos. Comunque oggi alle 18 i governatori delle regioni e Matteo Renzi si vedranno. Il Corriere della Sera racconta proprio anche di questo grande gelo tra Renzi e Chiamparino, della serie ci eravamo tanto parlati, e il clima invece è quello un po' più di tensione. Ci sono tanti temi, come vedete, sui giornali di cui possiamo parlare. Ce n'è un altro. Ma a Messina c'è l'acqua stamattina? A Messina non lo so. Io ho detto amici di Messina, ma noi siamo con voi, cioè, perché siete veramente vittime di questa situazione. Abbiamo provato a cercare anche di capire se raggiungiamo il sindaco di Messina, ma c'è il cellulare spento. Che facciamo un appello pubblico: sindaco di Messina, puoi accendere il cellulare? Ogni tanto. Cioè, no, dai. Più che altro se ti cerca, non so, il prefetto per una comunicazione d'urgenza, Alessandro. Forse è il caso non di rispondere a Oscar Giannini, no, a me. Però al prefetto forse sì. Comunque ci sono invece gli ascoltatori. Andrea da Padova che ci chiama. Buongiorno Andrea, lei che ci voleva dire? Buongiorno a voi Giannino e Mila. Niente, volevo dire riguardo i dipendenti della pubblica amministrazione. Volevo precisare una cosa. L'altro giorno vicino a casa mia c'è una fabbrica e ho visto tre operai che andavano a timbrare in mutande, pensi lei. Una roba incredibile. Allora dico, se questi qua si comportano in questa maniera qua, perché sì, c'è tutta sta difficoltà a licenziarli? Perché vecchio tema. Qua, scusa un attimo, hanno fatto un concorso e sì, si presume che il concorso scelgano i migliori. No, ma Andrea, ma è chiarissimo. Guardi, ieri il ministro Madia, tra l'altro, ha detto bisogna licenziare i dipendenti che truffano. Che mancava veramente aggiungere che il 25 dicembre sarà Natale quest'anno. Questo è un po' un inghippo, perché Brunetta, che ha fatto ricoperto quella poltrona, dice: ci sono le leggi, le ho fatte io. Le leggi ci sono. Senza dubbio. E a noi giornalisti tocca ogni volta ricordare che l'articolo 55 ter bla bla della legge del 2001, modificata nel 2009 da Brunetta, prevede anche l'utilizzo dei finti badge o artifici per non entrare, o finte giustificazioni di malattia, tutti i casi per il licenziamento, anche senza preavviso. La procedura tra contestazione e confronto disciplinare deve durare non oltre 120 giorni. Licenziamento totalmente previsto dalla norma attuale. Se non avviene è perché i dirigenti non fanno il loro mestiere e i politici non premono sui dirigenti. Detto tutto questo, i numeri. Nel 2014 solo 220 licenziati in totale su 3 milioni di pubblici dipendenti. Di questi 220 licenziati, solo 99 per assenteismo. Esatto. E tra l'altro, oggi, cronache, secolo XIX, Sanremo già scatta il primo reintegro in servizio. Oppure la stampa vigilessa di Monza, che timbrava e andava a farsi i casi suoi, paga una sanzione da 500 euro e torna in servizio. Ma allora, queste benedette leggi ci sono, abbiamo scoperto. Qual è il problema? I dirigenti che hanno paura ad applicarle, perché poi il giudice li reintegra. I dirigenti che nella procedura disciplinare nel 90% dei casi finisce con sanzioni molto leggere, come vedi nel caso della giudicessa. Poi c'è l'altra anomalia dei giudici che, malgrado le norme vigenti dicano che puoi licenziare senza dover per niente aspettare la pendenza del lunghissimo procedimento penale, molti giudici del lavoro, finché non c'è poi la sentenza definitiva penale, reintegrano. Anche perché il segnale è questo, è devastante. Questa vigilessa di Monza, io leggo dalla cronaca della stampa, è stata denunciata dai colleghi. Quindi i colleghi, che giustamente, questa altra frase rivoluzionaria della Madia che ha detto che la maggior parte dei dipendenti pubblici sono onesti, gli altri colleghi che fanno il proprio lavoro, il proprio dovere, denunciano perché dicono: porca miseria, ci sarà uno Stato che tutela me e dà un calcio nel sedere a quello là, e invece se la ritrovano in servizio. E allora quel dipendente la prossima volta ci pensa 500 volte prima di dire denuncio un collega che non però timbra. Il problema, secondo me, non so come l'ha detto, i ministri della funzione pubblica, siccome le norme ci sono, tutto quello che ogni volta ci tocca ricordare a Pappardella, e siccome i fatti continuano a essere quelli che hai appena citato sui giornali, i ministri, invece di dirci hanno licenziati, che tutto quello che dovrebbe già avvenire nelle norme, facciano parlare i fatti invece che fare parole. Cioè, 100 licenziati in un anno. Capito? Altrimenti la Madia, uno dice: vabbè, ma che parli a fare? Facci vedere nei fatti. Anche perché 100 licenziati, è vero che non tutti sono furbetti, la maggior parte sono onesti, ma 100 licenziati vuol dire a questo punto che sono tutti onesti, dipendenti pubblici. No, vuol dire che a Sanremo, dove gli indagati sono 195, sono il doppio del totale che in tutta la PA italiana. Esatto. Vabbè, c'è anche Giuseppe che ci chiama da Pavia. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. A proposito delle baby pensioni e degli dipendenti statali, parliamo almeno dell'area dei professori, questi non solo dopo 13 anni scarsi, anche 12, io ne conosco più di uno, che sono quasi tutte donne in effetti a lavorare nella pubblica amministrazione come professori, hanno fatto magari 2-3 maternità, hanno riscattato gli anni dell'università, quindi c'è gente che è andata in pensione lavorando meno di 10 anni, in più fanno sempre quasi tutti il doppio lavoro, ma a 25-30 euro l'ora un professore che fa ripetizione di matematica, greco, latino, queste materie un po' difficiline, signori, a 25 euro l'ora stiamo bassi, facendo mezza giornata sono 100 euro giorno puliti. E vabbè. Stiamo parlando di altri 2.500 euro al mese. Mm-hmm. Quindi... Beati loro, cosa dobbiamo dire? Giuseppe, il mio commento è: io non amo mai, e io non sono uno di quelli che dice Malcune mezzo gaudio, quindi non auguro a nessuno i controlli della finanza riservati a noi autonomi che è titolare di microsocietà. Certo, il giorno in cui la tanto amata da Alessandro Milan, guardia di finanza, si scatenasse verso i dipendenti statali che fanno il doppio lavoro, io qualche segno di equità lo... No, ma io non l'amo, la rispetto. Sto scherzando, figurati. Va bene, ma è il momento di dare i nostri Oscar, caro Oscar. È il momento. And the Oscar goes to... Io lo vorrei dare, il mio Oscar, a un italiano, un connazionale. Si chiama Riccardo Zacconi, forse non lo conoscete molto, ma intanto se mi aiutasse a capire come si supera il livello 480 di Candy Crush, mi darebbe una mano. Riccardo Zacconi è colui che ha inventato Candy Crush e che adesso vende la società di Candy Crush a Activision e nasce un colosso, cioè è un italiano che dal nulla ha creato questo giochino che fa impazzire milioni, perché l'ha quotato in borsa, vive a Londra, l'ha quotato a New York, ora vende ad Activision per 500 milioni di euro. Cioè una tra l'altro Activision fa anche lei un grande gioco molto diffuso al quale io non gioco. Questo Riccardo Zacconi ha trovato il modo, attraverso dei giochini di creare un impero economico, insomma, e quindi sono molto d'accordo. Complimenti a lui. Però se mi aiuta a questo punto a passare al livello 480 che di Crash mi fa, dice, con tutto quello che hai fatto mi fa una cortesia. Che diavolo. Allora, a me ha molto colpito, ma ognuno si porta dentro la sua storia, anche qui una vendita, perché leggendo su Repubblica nelle pagine verso la fine, perché ormai non fa più notizie e così via, naturalmente, però la firma mi ha tirato, Sebastiano Messina, si vende il patrimonio di memorabilia garibaldina di Craxi, che lo Stato aveva sequestrato nel 97. Sono passati 20 anni, tutti i protagonisti non ci sono più e restano però queste testimonianze. Allora, al netto di quello che ciascuno può pensare di Craxi, io mi auguro che non vadano dispersi, che davvero qualcuno all'asta le prenda e le tenga. Sai che c'è una battuta terribile di Spinoza che circolava su questa? Si vendono i cimeli di Craxi, ma quella è la mia autoradio! Questo lo capisco. Sono battutona. Dopo 20 anni è finita quello spirito, però insomma, ecco, a me questa roba che Craxi, con la quale non andavo molto d'accordo quando ero giovane repubblicano, però avesse questa passione per Garibaldi, in realtà a me mi piaceva. E compriamoci meglio. Magari. Perché la verità è questa. Stai già pensando a questo. Non è alla mia altezza di portafoglio. Si sa anche no, ci sono quadri. C'è tutto l'elenco. Come no? Quadri, calco di mani, eccetera. Ha fatto una bella collezione. La verità è che qualcosa di Garibaldi vorresti prendere. Sì, io lo ammetto. Garibaldi è l'unico leader militare della storia moderna italiana. Quindi l'unico che ha incarnato davvero quello che diceva Machiavelli. Del meglio, naturalmente poi i politici l'hanno infinocchiato, però. Come sempre capita agli uomini del fare, gli uomini della chiacchiera in Italia vincono. Allora, noi tra qualche minuto avremo Demetrio Albertini, ex calciatore, dirigente sportivo, per parlare di quello che sta succedendo nel mondo del calcio, con Tavecchio. Tavecchio resiste. State ascoltando un programma offerto da Salmoiraghi e Viganò. E allora, con Oscar Giannino, Alessandro Milan, parliamo di Carlo Tavecchio. Protesi a dare una dignità anche sotto l'aspetto estetico della donna nel calcio. Opti Pogba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. riteneva che la donna fosse un soggetto handicappato rispetto al maschio. Queste sono alcune delle frasi di Tavecchio di qualche mese fa. Delle non più gravi, non tra le più gravi. No, no, poi c'è stata la intercettazione un po' rubata sull'ebreaccio, definito così l'immobiliarista antico. Gli omosessuali, da tenermeli lontani. Perché lui è normalissimo. Io sono normalissimo. Insomma, colui che presiede la Federazione Italiana Gioco Calcio, sì. L'uomo ai vertici del calcio. Noi abbiamo con al microfono Demetrio Albertini, dirigente sportivo e calciatore. Buongiorno Albertini e grazie per essere buongiorno. Con noi. Buongiorno a tutti. Albertini, che lo ricordiamo al pubblico, è colui che sfidò anche per cercare di diventare lui presidente Tavecchio proprio. E meglio sarebbe stato. E meglio sarebbe stato, dice Oscar Giannino. Albertini, allora intanto può rimanere ai vertici del calcio una persona che dice queste frasi oppure no? Deve fare una sua scelta. Ha risposto anche il presidente del CONI, da una parte non ci sono le condizioni per poter commissariare la federazione, dall'altra sinceramente è una scelta che dovrebbe fare il presidente Tavecchio, che democraticamente è stato eletto. Poi che secondo me la situazione sia imbarazzante è sotto gli occhi di tutti, uno apre i giornali e vede sempre la stessa storia ripetuta. E che lui la scelta l'ha fatta, però mi sembra di dire, anzi vorrebbe addirittura ricandidarsi, non credo che voglia fare un passo indietro, tutt'altro. Sì, così l'ho letta anch'io, ho sentito anch'io. Va bene, nel senso che siamo liberi tutti, come detto ci sono dei ruoli dove la comunicazione o comunque le parole hanno un peso e non si possono sbagliare, e non è vero che è solo l'aspetto mediatico e basta, ma è un ruolo di rappresentanza, quindi sinceramente bisogna domandarselo questo. Ma senta, secondo lei è Tavecchio che deve domandarselo? Sono i grandi elettori che tengono le file del sistema del calcio italiano, le società di calcio. Sì, è giustissimo, perché quello che ho detto anch'io, io più di dare un'opportunità candidandomi di un'alternativa, questo è quello che potevo fare, non potevo avere i voti io, votarmi io mille volte in più di qualità. Quindi arriva tutto dai voti. Secondo me la problematica tante volte è che è un circolo chiuso e quindi i votanti sono esclusivamente una parte, cioè sono delle quote fisse che alla fine fanno sì che una direzione la diano poche persone, non se non siano elettori liberi. Ma, tra l'altro lei Albertini è all'estero in questo momento, all'estero se ne parla di questa vicenda e come se ne parla? E questo è il problema, che sinceramente io adesso mi trovo in Spagna, venendo in Spagna per lavoro, mi chiedono tanti amici, hanno letto la notizia, sapendo anche del mio trascorso, anche non di calcio, non solo persone del calcio, persone dei tifosi. Cioè cosa le dicono? Dicono ma com'è possibile che sì. Anche parole un po' più pesanti, un po' più dure, colorite, un po' più dure come si dice al bar, nel senso. Il problema è che alla fine da una parte noi la vediamo esclusivamente non tanto, perché vedendo tutto quello che leggendo i giornali e tutti se ne parla tutti, non è che è solo una notiziola e basta, si cerca di capire la situazione che in questo momento si sta vivendo dopo un'ennesima gaffa, chiamiamola gaffa, no? Chiamiamola gaffa. Però all'estero viene interpretata invece come situazioni razziste, questo è quello che... Ricordiamo che ha una squalifica, se non sbaglio, per razzismo. No, è finita. Era temporanea. No, era 6 mesi, esatto. Subito dopo eletto, sono stati 6 mesi e 6 mesi sono passati. Però le faccio un esempio, Albertini, sì. Abbiamo letto ieri sui giornali tedeschi, dopo l'emersione nell'ambito delle indagini sulla FIFA, Blatter, le tangenti per avere le edizioni mondiali e così via, dopo le voci su tangenti pagate dalla Germania per il mondiale del 2006, le autorità fiscali e federali tedesche hanno mandato l'equivalente all'Agenzia delle Entrate e le Guardie di Finanza ieri con decine di vetture a sequestrare documenti alla Federcalcio tedesca, dicendo noi apriamo un'indagine penale ai più alti livelli, non si scappa. Allora la Germania ha tanti difetti, non si tratta di prenderla come modello, però toccata la Federcalcio reagisce durissimamente. Da noi si fa una gara per i diritti televisivi, cioè il pilastro finanziario del calcio, palesemente falsa sotto gli occhi di tutti, e non succede niente. Perché la risposta dei presidenti dei club è: vabbè, eravamo tutti d'accordo, anche se ci abbiamo rimesso dei soldi. si elegge un presidente che dice quello che dice, e lei giustamente dice sì, io critico, ma poi sta solo a chi l'ha eletto cambiare. Perché il sistema calcio italiano è così meno reattivo alle regole di trasparenza e correttezza? Perché c'è troppa politica dentro, secondo lei? Molta politica all'interno del mondo del calcio. Io continuo a dire che prima di un valore economico, che è tantissimo, perché sono alcuni punti di PIL lo sport in Italia e soprattutto il calcio, è un valore sociale. È un valore sociale perché oggi è forse il più grande valore sociale, perché mi scuseranno i politici, ma la politica o la religione in Italia oggi è vissuta molto più superficialmente che essere tifoso di una squadra, e quindi ha un senso di appartenenza a quella squadra naturale, e quello ci sarà sempre, ed è per quello che alla fine il gioco del calcio è il più seguito in Italia, è il più seguito al mondo. Fa specie che noi non guardiamo mai quello che succede fuori, o almeno non cerchiamo di imitare, non di copiare, perché copiare vuol dire prenderlo tutto in toto, però imitare dove dalle altre parti prendono delle posizioni dirette, no? Sì. Dirette, e quindi in questo caso quello che è successo, che sta succedendo nella fattispecie alla Germania, per un controllo, non è, certo, non è per un giudizio, ma per un controllo, perché se no si parlerà sempre, rimarrà sempre delle situazioni giornalistiche, punto e basta. No? E quindi con i fatti concreti dall'esterno c'è questa possibilità del controllo. Da una parte l'autonomia dello sport è giustissima, perché è gente che, non dico fa carriera, però si occupa quotidianamente di quello che poi è lo sport in Italia. Però oltre all'autonomia vive i controlli. Vive i controlli. Però Albertini, a me ha colpito perché anche lei ha detto Malagò, cioè presidente del, sì, CONI, cioè che sovrintende al tutto lo sport olimpico, pur condannando le frasi, dice formalmente non possiamo intervenire, a meno che una federazione non sia, come dire, guidata con dissesti finanziari, non possiamo fare nulla. Ma le sembra normale che non si possa fare nulla? Allora, questo non lo so, perché io non mi sono occupato di una vicenda di questo tipo tecnicamente, quindi il presidente Malagò che è l'interessato a poterlo fare, quindi io non conosco e non ho voluto andare a cercare la possibilità di un commissariamento. A me non c'entra niente, per me non vuol dire niente. No, no, perché come giornalisti noi non abbiamo l'obbligo di... noi dobbiamo chiedere ai protagonisti come la pensano. Assolutamente. Noi poi abbiamo l'obbligo di dire... Quello di come uno la pensa... Esatto. Tutti i giornali ieri ripetevano che formalmente è ineccepibile la posizione di Malagò, quindi, cioè non ha gli strumenti per... Noi abbiamo l'obbligo di dire chi ci ascolta che certo che il CONI può commissariare le federazioni, certo che può... E la norma, diciamo così, letta un po' avvocatescamente, dice non la possa commissariare tranne che in caso di mala gestione. Esatto, una questo. Cosa è certa: se oggi il CONI intervenisse col commissariamento per frasi razziste, tutte il Comitato Olimpico Internazionale, sì, nonché la FIFA, eccetera, applaudirebbero. Direbbe bene, visto che c'è quindi stata la squalifica. In realtà, Malagò dice non ho voglia di farlo. Esatto. Albertini, perché sinceramente ci sono stati, ripeto, percorrendo un po' delle squalifiche, soprattutto a dei ragazzi. C'è stato un ragazzo, mi sembra di Bergamo, che ha usato frasi razziste in campo ed è stato squalificato per circa, non vorrei sbagliarmi, 8 settimane, messo ai servizi sociali, no? Quasi, capito? Per insegnamento determinato. Quindi oggi il discorso è capire o spiegare se dopo reiteratamente viene definita una frase razziale, con la premessa che sinceramente, che adesso mi vengono le parole in spagnolo, scusate, sì. No, che registrare una telefonata all'insaputa però è la reattività e la ripetitività con cui, esatto, il presidente Tavecchio esprime. Ma lei tanto l'ha conosciuto mondo, perché Tavecchio comunque l'avrà conosciuto, l'avrà pure. Ma è il tipo, siamo stati tutti e due vicepresidenti, infatti, ma è una persona, cioè lei è stupito da queste frasi oppure dice no, ma perché guardi che Anticoli, quello definito ebreaccio, dice ma io l'ho sempre conosciuto per uno che fa queste battute. Nel senso che lui sia ruspante in questo caso ci può stare, nel senso come l'ho conosciuto, Io ho sempre detto che, essendo brianzolo anch'io, anche le battute in dialetto tante volte si fanno, no? Persone, quello di mio papà, più o meno all'età di mio papà, più o meno, no? E quindi stessa cosa. Il problema è il ruolo che uno ricopre, non è che possiamo ma non può dire cose simili un presidente della Federcalcio. No, ma no, è il ruolo che uno ricopre, e qui stiamo giudicando il ruolo che uno ricopre e che rappresenta, perché io continuo a dirlo, quando l'istituzionalità, avendola conosciuta molto di più fuori dal campo da dirigente che dal campo quando ho giocato, anche se ho indossato per tanti anni la maglia della nazionale, all'estero quando vai la nazionale rappresenta il paese, ma non c'è dubbio, questo è il problema, e questo è, visto che lei lo tocca all'estero, e ahimè il problema di un sistema in cui il potere è così intrecciato che la prima fonte economica è completamente falsata, da gare pubblicamente falsate, e in cui i valori dei presidenti che si scelgono sono valori intollerabili. Comunque, Albertini, noi la ringraziamo, si rimetta un po' in forma e si metta nel centro del campo, che per il mio Milan e il suo Milan forse farebbe ancora comodo un metronomo lì. Viva così, viva. Va bene, la ringraziamo ovviamente per essere stata con noi. Demetrio Albertini, grazie. C'è spazio per Caterina da Pavia. Buongiorno Caterina. Buongiorno a voi, buongiorno Milan, buongiorno Giannino. Io molto velocemente volevo dare solamente la testimonianza per quanto riguarda i dipendenti pubblici, in quanto ho avuto una madre che ricopriva un ruolo organizzativo all'interno di un ufficio pavese ed è andata in pensione con una baby pensione, ma perché aveva problemi di salute nell'82, e già queste cose succedevano normalmente. No, ma per carità di Dio. Perché mia madre aveva dei colleghi che andavano a fare la spesa, chi faceva il fotografo durante le ore di lavoro, che erano sei ore di lavoro. Ah, bello. Caterina, a conferma di quello che dici, da quando, pochi anni, cioè dal 2009 in avanti, esiste un minimo di raccolta dati su giorni di assenza medi annui dei pubblici dipendenti, da quando sono monitorati, sono in discesa infatti, non solo c'era anche prima, ma prima pare che fosse addirittura peggio, monitorandoli un pochino di, tra virgolette, invito alla correttezza si fa. Comunque, grazie Caterina, c'è anche spazio, se è velocissima, per Loretta da Brescia. Buongiorno Loretta. Sì, buongiorno, velocissima. Grazie. Per quanto riguarda i finanziamenti alla Chiesa, mi sa che dovremmo rivedere un po' il concordato, perché arrivano troppi soldi alla Chiesa, così uno si adatta su questi materassi pieni di soldi e poi noi non riusciamo più a gestire, passiamo pieni da di soldi uno stato all'altro. I materassi pieni di soldi non è male, si adagia sui materassi pieni di soldi. Si fermi lì. Sono i conti allo IOR ancora aperti dei laici, ha ragione Loretta, bisogna modificare l'8 per 1000 e uscire dal regime concordatario. Io la penso come lei. Lo so, ma questo è un tema che, voglio dire, la molto politica, molto anche lì più la non politica. Tocca, perché come il calcio non si tocca, la CEI non si tocca. Vabbè, caro Oscar Giannino, che dobbiamo fare? Noi facciamo il nostro mestiere, tutto così. Qua. Va bene, ci fermiamo con Alessandro Longoni, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè in regia. Caro Oscar, ci troviamo domani. Però gli ascoltatori continuino su Radio 24 e come sempre. E ora giornale radio, viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Radio 24.